Essere e benessere di Nicoletta Carbone. Buongiorno a voi e benvenuti. Noi oggi giochiamo in anticipo, parliamo di mamme. Come voi tutti saprete, domenica prossima è la festa della mamma. Allora festeggiamola e facciamoci festeggiare a dovere. Allora oggi, per parlare di mamme, ho invitato tre autrici che al mestiere di mamma hanno dedicato un libro. Voglio subito presentarvele. Abbiamo in linea Ludovica Scarpa, autrice di Tranquille dentro, Il piccolo talismano della mamma, Ponte alle Grazie editore. È docente di teorie e tecniche di comunicazione trattativa all'Università UAV di Venezia e mamma di due figli. Abbiamo anche Francesca Del Rosso, che è autrice insieme a Daria Polledri del dizionario bilingue italiano-bambinese, bambinese-italiano, è giornalista e mamma di due figli, di due bambini. E in linea con noi abbiamo anche Barbara Tamborini, autrice di Reality Mamma, San Paolo editore, pedagogista, mamma di quattro figli. Buona giornata e benvenute a tutte e tre, grazie. Buona giornata, dunque. Buongiorno. Un coro di mamme, Beneaugurante. Beneaugurante, perché le mamme devono fare rete. Cari amiche, raccontarsi e scrivere di sé nel momento in cui si vive questo passaggio speciale nella nostra vita di donne può essere utile, credo, forse terapeutico, ma questo ce lo racconterete voi nel corso della trasmissione. Intanto io invito le mamme che ci stanno ascoltando a chiamarci o a scriverci per raccontarci avventure e disavventure del mestiere di mamma. 800 24 00 24 è il nostro numero verde, 349 238 6666, ma come sapete c'è anche la nostra email esserebenessere@radio24.it oppure il nostro profilo Facebook. Ludovica, tu potresti definirti una mamma zen. Sottotitolo del tuo libro è infatti Il piccolo talismano della mamma. Nicoletta, magari, cioè lo zen mi ha molto aiutato, devo dire, ma lo zen non è una cosa che si ottiene una volta per tutte e poi ce l'ha in tasca, purtroppo. Mi ha aiutato molto a superare il modo sofferente e preoccupato di voler bene ai figli, che è un po' il problema di cui mi occupo, no? Cioè preoccuparsi come chiave di lettura, procedura della mente che si può superare. E le mamme sono spesso troppo preoccupate. Tu di questo parli nel tuo libro e sottolinei che la relazione tra madri e figli è la relazione per eccellenza, il modello, esatto, il prototipo di ogni altra. Per questo va coltivata con cura, con accettazione, con infinita benevolenza. Certo. Di questo parleremo naturalmente nel corso della trasmissione e Ludovica, puoi descriverti con una parola chiave? Perché voi tre, le nostre tre ospiti, tu quindi insieme a Francesca Del Rosso e Barbara Tamborini, avete molti tratti in comune, ma mi piacerebbe che ciascuna di voi si caratterizzasse in modo che le nostre amiche da casa si potessero riconoscere in voi. Certo, ma una parola chiave tu dici, io direi significato, cioè io mi sono accorta che con la scelta di uno sguardo pieno di benevolenza mi posso accorgere che è la mia mente che aggiunge significati a ogni cosa e che se rifiuto le sorprese, le cose che non mi aspetto, vado sulla difensiva e posso stare molto male, angosciarmi, preoccuparmi, arrabbiarmi e tutto questo è assolutamente superfluo. Superfluo, hai ragione, bisogna rendersene conto prima, non quando è troppo tardi. In tempo reale. In tempo reale, e sfrutteremo naturalmente i tuoi consigli. Vado da Francesca. Francesca, tu sei una traduttrice, possiamo definirti così? Il tuo dizionario bilingue italiano-bambinese, bambinese-italiano è divertentissimo, perché leggendolo gli strafalcioni dei bambini si torna tutti piccoli, poi ci sono dei consigli del della logopedista, il frasario per ogni situazione, le lezioni di bambinese. È difficile trovare una parola chiave, ti dirò che forse direi multitasking. E nel senso che per esempio ho inventato con Daria questo dizionario perché volevo ricordarmi tutto dei miei bambini, come parlavano, vorrei memorizzare qualunque cosa, quindi tengo un loro diario, però nel frattempo scrivo il dizionario per memorizzarmi tutte le loro parole e poterle poi riraccontare a loro, 100.000 altre cose, insomma scrivo dappertutto, mi sento molto multitasking e forse è un metodo anche per ricordarsi e ritornare poi bambini con i nostri bambini, anche quello di scrivere tutto, quello che fanno, quello che dicono, come parlano. Allora, se vi riconoscete in Francesca, mi raccomando, tenetela d'occhio nel corso della trasmissione. Mentre Barbara, tu sei una mamma che punta sull'ironia, insomma, ridere per non piangere, a volte aiuta. E questa è un po' la filosofia del tuo reality. Sì, direi che mi riconosco in questa, sia nell'ironia che un po' nella meraviglia, perché in effetti capita che durante il giorno si corre da tutte le parti a prendere, a portare i figli, si cerca di recuperare tutto quello che ci si è dimenticati di fare e poi alla sera si arriva sfiniti. Ma poi succedono delle piccole sorprese, come per esempio qualche sera fa che ero in bagno con la mia piccola di 3 anni e le stavo mettendo il pigiama. E allora eravamo in un momento proprio mamma e figlia che ci stavamo facendo delle coccole e lei mi ha chiesto se mi piaceva il suo pigiama rosa pieno di principesse. Gli ho detto è meraviglioso, lei mi guarda piena d'amore e mi dice: mamma, quando diventa grande te lo regalo. Carini. E lì in effetti proprio resto colpita dalla meraviglia e direi che proprio è questa sorpresa che un po' mi dà la carica e mi fa sorridere per affrontare un po' le sfide quotidiane. Quindi Barbara, tu hai scelto addirittura 2 parole, d'altra parte sei mamma di 4 figli, ti lasciamo scegliere 2 parole, sorpresa e ironia, e intanto chiedo alle amiche da casa che tipo di mamma siete, a che tipo di mamma vi ispirate, chiamateci, raccontateci, perché le nostre autrici alla fine della puntata sceglieranno alcuni interventi a cui abbinare il loro libro. Sono tutte belle le mamme del mondo, ma sono tutte diverse. Ludovica, le mamme italiane sono sempre state accusate di essere troppo chiocce, ma negli ultimi tempi siamo cambiate un po' o no? Ma siamo diventate grandi manager più che chiocce, no? Siamo queste mamme elicottero che pattugliano la vita dei figli e non solo, sempre pronte a salvare le situazioni, cioè siamo bravissime in verità. Tuttavia forse soffriamo un po' troppo e la sofferenza non è obbligatoria, cioè si può veramente superare. Senti Ludovica, tu puoi darci alcuni consigli, ce ne sono molti nel tuo libro, per così trattenerci dall'essere mamme elicottere, quindi per superare un po' l'ansia, per aiutarci. Tu dicevi giustamente che non è che uno diventa zen e resta zen tutta la vita, te lo mette in tasca, ma usiamo questo modo di definirci, ecco, come affrontare i piccoli affanni quotidiani? Tante volte basta cambiare una parola. Sì, infatti, puoi cambiare una parola, puoi allenarti a un piccolo distacco, allenarti alla selezione della tua percezione, cioè invece di preoccuparci che ci abitua a non vedere potenzialità e risorse, possiamo ricordarci di selezionare il nostro sguardo verso le cose belle che ci fanno bene, le sfide, il modo di parlare dei nostri ragazzi che è sempre magnifico. Ad esempio tu consigli di trasformare l'ansia in un buon augurio. Esatto, cioè quando noi mamme molto spesso ci preoccupiamo, magari sono i figli in un'altra città che studiano, io mi occupo soprattutto delle mamme di figli un po' grandini che stanno andando all'università o stanno per, ecco, invece di pensare avrà mangiato, starà bene, come sta, di ricordarci che se lo facciamo, lo facciamo perché ci auguriamo che i nostri ragazzi stiano bene. E allora dentro di noi possiamo girare l'abitudine allo sguardo verso il pauroso, girarla verso il nostro augurio e dentro di noi dirci: mio caro, che tu possa stare bene oggi, che tu possa avere un momento per goderti l'inizio dell'estate, anche se stai studiando così tanto, eccetera, eccetera. Quindi di abituarci a accorgerci che se ci preoccupiamo non è che un modo distruttivo di rapportarci al nostro affetto e al nostro buon augurio verso i nostri figli. Francesca, anche a te chiedo dei suggerimenti alle mamme all'ascolto, ma mentre Ludovica si occupa un po' di mamme un po' come me, che hanno i figli che partono e vanno a fare anche esperienze altrove, io vorrei che tu parlassi alle mamme che come te sanno di avere a casa una figlia iena, a cui tu peraltro hai dedicato un libro. Oltre alla iena adesso anche un unno, quindi diciamo che ne abbiamo due bei personaggi in casa. Io il consiglio che do a me stessa prima di tutto e poi appunto alle altre mamme è quello di prendersi il proprio spazio, ricordarsi sempre una banalità, insomma, che prima di essere mamme noi siamo donne, siamo delle persone e dobbiamo volerci bene, perché se poi arriviamo stressate, arrabbiate, triturate dalla quotidianità e anche dal piano tanto magari dei nostri bambini, dalle loro esigenze, non li comunicheremo mai serenità, fantasia, divertimento, perché siamo stanche prima di tutto e perché magari dobbiamo prima dedicarci a noi. Quindi lasciare magari la iena, l'unno di casa, al papà, ai nonni, alle tate, a chiunque. Scaricateli, insomma. Io dico sempre ai miei ascoltatori, scaricatemi. Però, ecco, io dico scaricateli un po'. E godiamoci una meritata serata da sole, a leggerci un libro, al cinema, anche con le amiche, ma insomma ci meritiamo anche noi di stare un po' da sole senza nani pelosi attaccati alle gambe e forse ricaricate, poi abbiamo anche più energia da regalare ai nostri bambini. 800 24 00 24, vedo già che le mamme che mi stanno scrivendo al 349 238 6666 si stanno schierando. Alcune appunto sposano l'idea di Francesca a scaricare un po' i bambini proprio per ricaricarci, per avere degli spazi nostri, per poter poi stare loro accanto in modo più sereno. Altri invece sposano i consigli di Ludovica Scarpa. Adesso io vorrei però andare a sentire Barbara, perché la clip del tuo libro, Barbara, si chiude con una frase che mi è piaciuta molto: per farsi venire una buona idea conviene farsi una risata. E io credo che di buone idee bisogna averne tante se si devono gestire quattro figli. Sì, direi che le buone idee non sono mai abbastanza ed effettivamente la cosa che conviene fare è continuare a provare, a sperimentarle per vedere quanto sono buone. E ad esempio una delle ultime idee che abbiamo un po' sperimentato in casa nostra è stata quella di appendere un piccolo mansionario, cioè coinvolgere anche i figli nelle incombenze domestiche. E anche qua devo dire che è stata una bella avventura. Al più grande abbiamo affidato il compito di stendere e se l'è cavata piuttosto bene. A Pietro, che ha 6 anni, doveva chiudere gli scuri dei vetri, che lui chiama le coperte dei vetri, ha chiamato le coperte dei vetri, anche lui se l'è cavata bene. Invece con Alice, la bambina di mia figlia di 8 anni, doveva sistemare i panni stesi. Su questa cosa io ci ho provato per un po' di settimane, ma l'impresa era veramente troppo difficile, perché per mettere via un fazzoletto la dovevo inseguire per ore e non c'era modo di riuscire a farglielo fare. E quindi alla fine ci ho rinunciato, abbiamo cambiato compito e mi sono messa io a rifare questa cosa. E un giorno ho provato a dire: ah mamma, come sono stanca, che ho messo a posto 3 pila di biancheria, e lei mi ha guardato candidamente e mi ha detto: ecco mamma, adesso mi capisci, eppure tu me lo facevi fare quando volevi tu lo puoi fare quando vuoi, invece io lo dovevo fare quando me lo dicevi tu. E lì ho capito, insomma, da una parte hai capito che dai figli, di cui parleremo proprio nel corso della trasmissione, prendendo anche spunto da una frase che ho letto nel libro di Ludovica, che dai figli possiamo imparare molto, ed è questa la sfida che vi lancio. Che cosa avete imparato dei vostri bambini? Che cosa state imparando? In che modo vi hanno cambiato e forse reso migliori? 800 24 00 24. Abbiamo Giovanna che ci chiama da Parma, poi Paola da Roma e abbiamo anche un Federico dalla provincia di Cremona. Giovanna, buongiorno. Sì, buongiorno. Ho un bambino di 22 mesi che ha appena iniziato l'avventura dell'asilo nido ed è stato per lui un momento assolutamente magico, meraviglioso. Non un pianto, non, un mamma dove vai, e, sì, insomma, è stato molto molto bello, è stato un po' più forte per me, ecco, che ho vissuto in simbiosi con il piccolo da quando è nato e... Eccola qua, forse Giovanna infatti ha detto per lui è stato magnifico e la voce si spegneva un po'. Ludovica, Giovanna è un po' una mamma, non dico elicottero, ma insomma aliante? Ma direi abbastanza, direi di sì. Io ho imparato un sacco di cose dai miei figli, c'è una lista lunghissima. E quindi Giovanna adesso però sei tranquilla, lui va all'asilo. Assolutamente, ma no, ma non è stato così traumatico, certo. È stato sicuramente emozionante l'idea di vederlo iniziare a condurre la propria vita indipendentemente dalla mamma, è stato più che altro un'emozione forte, sì. Non penso di essere una mamma troppo apprensiva e chioccia, anzi, nel senso che ho sempre pensato di rendere mio figlio più indipendente, tant'è che insomma tutto ciò che è in grado di fare da solo lo fa, sì, assolutamente da solo, e in questo sto imparando tantissimo da lui, nel senso che mi ha reso una persona più forte sicuramente, sì, più capace, nel senso più capace di mettermi in gioco nella relazione con una personcina che in realtà insomma di capacità relazionali ne ha un po' pochine, però nel suo piccolo mi ha stimolato in assolutamente in questa cosa. Giovanna, ti invito a raccogliere anche il suggerimento che Francesca Del Rosso dà nel suo dizionario, che è quello di raccogliere, vero Francesca, gli strafalcioni, le frasi in bambinese dei piccoli per poi appuntarle, e quando saranno grandi, Francesca, si rilegano. Quando saranno grandi rideranno a crepapelle a rivedere come, a rileggere come parlavano loro. Tutti noi genitori ridiamo molto ad ascoltarli, ma poi appunto la memoria insomma non è eterna e ci dimentichiamo tutto, e in questo modo invece ci possiamo così ridere anche insieme. E allacciandomi anche a quello che stavate appunto dicendo su quello che noi impariamo dai nostri bambini, impariamo molto anche dalla loro lingua. In fondo io per scrivere questo dizionario ho studiato, diciamo così, il bambinese, e ho scoperto che un bambino già a 3 anni ha uno spiccato senso del comico, si diletta a sovvertire tutti gli schemi linguistici, fa apposta gli errori per far ridere gli adulti, no? E anzi, crea accostamenti bizzarri, ridono e poi appena scoprono che il genitore o l'adulto ride ancora di più. Fanno accostamenti, rovesciano il senso delle parole, insomma giocano con le parole. Forse noi tutti questo lo facciamo poco, e invece dai bambini sì, questo si impara, ecco, si può fare. Intanto appuntiamoci questo. Essere e benessere. Viva la mamma, affezionata a quella gonna un po' lunga, così elegantemente anni 50, sempre con. E voi che mamma siete? Che mamma vorreste essere o che avete avuto? 800 24 00 24, ne parliamo oggi con Ludovica Scarpa, Francesca Del Rosso e Barbara Tamburini, che sono all'ascolto, aspettano anche le vostre telefonate, i vostri suggerimenti, le cose che ci potete raccontare, avete imparato dai vostri bambini, per proprio scegliervi e regalarvi uno dei loro libri. Barbara da Modena, buongiorno. Buongiorno e grazie infinite dello spazio. Ci racconti, Barbara? Io ho 37 anni e 2 figli e chiamo in realtà per reclamare di non essere chiamata mamma. Sì, perché è come vuole essere chiamata, Barbara? Ma in Barbara, sì, a seconda dell'ambiente di lavoro, posso essere una professionista, una, sì, consulente, posso essere un'amica, posso essere una moglie. Sì. Non amo particolarmente l'etichetta di mamma perché secondo me richiama un modello di femminilità che non mi definisce. Non le definisce. E i suoi bambini come la chiamano? Ah, mi chiamano mamma ovviamente, ma perché per loro sono la mamma, però non lo intendo come un titolo di studio, non lo intendo come un badge d'onore, diciamo. Sì. Diciamo che è un rapporto che io ho con loro, e se posso dire, sono stati proprio loro a insegnarmi che mamma non mi definisce completamente. Cioè, grazie al rapporto che ho avuto con loro e alla situazione che si è instaurata con la maternità e che portiamo avanti ogni giorno nella relazione loro di crescita, sì, e anche mia ovviamente di crescita, io ho capito meglio chi sono complessivamente. Certo, quindi Barbara, lei vuole essere definita, chiamata mamma solo dai suoi bambini, e l'idea di dire Barbara è una mamma, no, Barbara è una donna, un amico, una professionista. Esatto. Facciamo un rapido giro di tavolo delle nostre mamme all'ascolto rapidamente. Ludovica. Sì, come ti sembra l'osservazione di Barbara? Ma intanto io nel mio libro parlo proprio del fatto che mamma significa relazione, esiste nel sistema mamma-figli. Noi siamo mamme nella misura in cui abbiamo i figli. Certo. Cioè, sono i figli a farci la mamma. Beh, certo. E quindi assolutamente ha ragione, certo, è così. Francesca? Assolutamente d'accordo, e il multitasking è anche questo: mamma, moglie, amica, collega, professionista, giornalista, scrittrice, chi più se ne metta. Poi dopo dobbiamo riuscire a trovare un equilibrio fra tutte queste nostre funzioni e relazioni, però sicuramente non siamo solo mamme. Non siamo solo mamme, anche per Barbara Tamborini? Ma sì, direi che sulla questione terminologica non saprei bene cosa dire, però credo che sono d'accordo nel fatto che quando poi uno è in relazione con altri che non sono i propri figli, è giusto e bene giocarsi una relazione molto presente sul qui e ora, e quindi se mi sto relazionando con una mia amica che mi sta raccontando qualcosa di importante, certo, io sono lì come amica, non solo mamme, tutto, come ci suggeriva, e non la filtro solo pensando alla mia esperienza di mamma e quindi perdendo l'attenzione nei suoi confronti. Ecco, questo potrebbe anche essere un esercizio. 800 24 00 24, abbiamo Paola, poi andiamo da Federico, state chiamando in molti, vi darò naturalmente lo spazio. Paola, buongiorno. Sono io? Sì, è lei, Paola. Buongiorno, buongiorno. Benvenuta. Una trasmissione meravigliosa. Grazie, Paola. Allora, festeggiamoci, ci racconti. Volevo chiedere questo, un'attenzione al nostro ruolo, prima di madri, ancora di persone. Certo, lei ha un segreto per vivere serenamente con i suoi bambini, Ludovica, e anche nei libri delle nostre amiche qui, e poi lo sappiamo anche noi, mamme e non solo mamme, la relazione con i propri figli è una relazione molto speciale che va coltivata e nutrita. Un segreto per coltivare bene questo rapporto, Paola? Un segreto è cercare sempre la luce... Sì. Negli occhi dei propri figli. Grazie Paola per essere stata con noi, la sentivo un po' commossa. Andiamo a Federico, che ci chiama dalla provincia di Cremona. Buongiorno Federico. Buongiorno. Immagino che lei sia un papà. Io sono, sì, beh, certo, sono un papà. Sono un papà, ho 61 anni adesso. Sì. E la cosa che posso dire a tutti gli uomini, sì, di apprezzare molto molto molto di più le donne, perché con la mia esperienza ho potuto così minima parte valorizzare di più di quello che io avevo valorizzato, perché ho sempre valorizzato le donne, ma per il ruolo che hanno proprio nella vita. Sì. E posso dire che forse gli uomini si sentono uomini perché non stanno molto con i figli, perché lavorano, sì, eccetera, ma si perdono una cosa che non avranno mai se non lo faranno. È quella forza. Quindi il suo è un appello per i padri, Federico. Sì, partecipare al massimo, far riposare al meglio le donne senza che lo chiedano, ma solamente anticipare, bravo, perché chiedere da farsi aiutare dietro. Quindi, una richiesta un attimo è una prima cosa un po', bravo, è un po' brutto, perché, bravo, perché Federico, non... lei vedo che ha capito la situazione. Andrei ad Evelyn, che ci chiama dalla provincia di Udine. Buongiorno, benvenuta. Buongiorno, grazie. per la, quanto riguarda la mia esperienza, io ero una donna in carriera, sì, presa tantissimo, per cui ritmi frenetici e non pensavo neanche di avere un figlio, onestamente. Mm. Improvvisamente è arrivata il mio angelo. E questo mio angelo mi ha fatto improvvisamente capire che il senso della vita è tutt'altro, perché mi fa ragionare su ogni piccola cosa quotidiana, ogni piccola conquista. Ho una bambina speciale perché è nata disabile, diciamo. Sì. E a questa cosa aggiunta mi ha fatto capire che la mia frenesia, la mia infelicità, perché comunque era sempre alla ricerca di qualcosa, mi ha completato. Per cui mi ritengo una donna fortunatissima, perché questa bambina è favolosa per me, però mi ha insegnato a valorizzare ogni giorno, perché noi viviamo alla giornata e ci godiamo ogni piccola cosa di tutte le giornate. Quindi, grazie questo... Evelyn, per essere stata con noi. Ludovica, si ritrova molto di quello che ci ha raccontato Evelyn nel tuo libro? Guarda, assolutamente, anzi sono proprio contenta che Evelyn l'abbia detto lei, ci godiamo momento per momento ogni cosa della giornata e dai figli impariamo a non svalutare niente. Pensare ai nostri figli ci attiva l'intelligenza del cuore, la felicità, l'empatia, cioè il modo più diretto per essere al mondo. Prima di dare la linea alle strade, voglio leggere una frase del Dalai Lama che tu hai appuntato sul tuo libro nel capitolo Accettare altre varianti. Non c'è nulla di più rilassante dell'accettare quel che arriva. Essere e benessere. E continuiamo a parlare delle mamme e in linea abbiamo le nostre mamme, autrici di libri di cui mi state richiedendo i titoli. Io ve li ridico rapidamente: Ludovica Scarpa, Tranquille dentro, Il piccolo talismano della mamma, un dizionario bilingue per capire bene il nostro bambino, è un italiano bambinese, bambinese italiano, scritto da Francesca Del Rosso e da Daria Polledri, e Reality Mamma, come rendere preziosi 3 mesi di fuoco, di Barbara Tamborini. Barbara, volete aggiungere anche voi qualche consiglio, qualche spunto per le mamme all'ascolto con bambini ancora abbastanza piccoli? Con Ludovica andiamo con i figli che vanno, crescono, sono grandi, chiedono indipendenza, anche se l'indipendenza è una richiesta anche ormai dei bambini che vanno alle elementari e ancora alla scuola materna. Francesca. Guarda, riallacciandomi vorrei fare una battuta alla nostra ascoltatrice che diceva la luce negli occhi di mia figlia in qualche modo mi rasserena. Io invece spesso penso che è il pensiero della luce in fondo al tunnel che spesso mi rasserena. Prima o poi la fase dei bambini molto molto piccoli che piangono, hanno tante esigenze, ma magari riescono a trasmettere meno di quanto noi ci aspettiamo, mi manda avanti e mi dà l'energia per avere ancora pazienza. Adesso che sono più grandi, devo dire che sono molto più divertenti e giocare insieme a loro è sempre una bella conquista. E forse quello che ho imparato e che consiglio a tutti di stare molto attenti è che quando i piccoli fanno delle grandi conquiste, noi gioiamo insieme a loro. Oh, sì. Quindi la conquista della parola, dell'espressione, della logica è un successo per loro e per noi genitori che lo vediamo è una soddisfazione, una gioia incredibile. Barbara, consigli per prendere anche i momenti un pochino più pesanti, quando ad esempio i bambini hanno, che ne so, l'influenza, devi fare i compiti, uno strilla, tu gestisci 4 bambini, ecco, per coltivare l'ironia, per non mordere, come mi scrive un'ascoltatrice. Devo dire che a me ha colpito molto la telefonata di Evelyn, che raccontava un po' la sua esperienza, dove da molto movimento alla fine si è un po' trovata costretta a fermarsi e a accompagnare un pochino l'arrivo della sua bambina e i primi mesi di vita della sua bambina, e devo dire che effettivamente questa cosa mi è molto piaciuta e mi ci riconosco. Credo che proprio l'essere mamma e diventare mamma, come diventare papà, è un'esperienza rivoluzionaria, proprio che ci costringe a muovere i nostri schemi, a riadattarli, a fermarci, ed effettivamente a volte all'inizio può essere faticoso, però credo proprio che poi si prende il passo. Questa pausa ci sia proprio grandi, ci siano grandi apprendimenti, e poi un'esperienza molto realizzante proprio, e che dà quella felicità di cui parlava Evelyn, che credo sentano molte mamme. Facciamo un saltino a Como con Michela. Buongiorno Michela. Sì, buongiorno. Senta, io chiamo perché casualmente sono all'ascolto della vostra trasmissione, sono in automobile che per lavoro sto andando a Treviso, perché sono una mamma che lavora e ha sempre lavorato. Sì. Non sono più una mamma giovane, mentre ho sentito che in questa trasmissione ce ne sono stati parecchi interventi di giovani mamme. Io ho 50 anni e ho 5 figli. Caspita. Io ho sempre lavorato e, diciamo, all'inizio con mansioni inferiori, poi sono arrivata a essere dirigente, poi per cause di crisi economica sono stata più volte lasciata a casa. Nella posizione di dirigente non c'è grosse difficoltà e ho avuto... Ecco, e quindi una mamma di 5 figli che lavora e che ci regala... Mi piace dire queste cose, mi piace l'idea di intervenire, perché... Devo dire che non ho cercato i bambini primi mi sono prime, avevo 25 anni, poi sono arrivati tutti, il quarto l'ho avuto 29 e l'ultimo l'ho avuto dopo un'interruzione del mio matrimonio di 3 anni con mio marito per varie incomprensioni dovute anche proprio a questa vita frenetica di lavoro, mai fermo il lavoro, al viaggio all'estero, miei, suoi, bambini. Nata una con una cardiopatia congenita. Quindi Michela, dalla sua esperienza lei può dire alle mamme all'ascolto, mamme oppure ci chiamiamo per nome, ragazze, giovani donne? Ecco, vorrei dire di non disperarsi, perché all'inizio viene da gettare la spugna, specialmente nella mia situazione. C'erano dei momenti che mi svegliavo al mattino e dicevo non voglio rilassarmi, certo, e quasi odiavo i miei bambini, perché dicevo se non ci fossero loro sarebbe tutto più facile. D'altro canto sono quelli che invece mi hanno dato altri. E quelle che ci aiutano ad andare avanti. Grazie Michela, io voglio andare a salutare una mamma, sarà mamma tra poco, è Marilena Iorio, ricercatrice presso il Dipartimento di Oncologia Sperimentale dell'Istituto Nazionale dei Tumori di Milano. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti. Perché Marilena Iorio? Perché domenica 13 maggio, festa della mamma, torna l'appuntamento con l'Azalea della Ricerca, il fiore simbolo del sostegno alla ricerca sui tumori femminili. Ci saranno i 20.000 volontari impegnati in tutto il paese per distribuire appunto le piantine di azalea, e anche una pubblicazione dedicata alla salute delle donne. Marilena, lei è stata così definita un po' un talento rosa della scienza. Lei è una donna che lavora per le donne. Sì, diciamo che in effetti si può dire che mi sono sempre occupata di tumori femminili, tumore all'ovario e soprattutto tumore al seno, ed in particolare mi occupo negli ultimi anni di molecole un po' curioso, microRNA, piccolissime ma con un ruolo veramente cruciale praticamente in tutti i tumori umani, incluso il tumore al seno. Diciamo che adesso, grazie proprio a un finanziamento startup dell'AIRC, il mio scopo attuale, il mio progetto attuale riguarda lo studio di quali di queste molecole sono più importanti del tumore al seno, capire quali sono i meccanismi che portano alla loro alterazione e soprattutto cercare di trovare il modo per intervenire, ecco, per ripristinare quell'equilibrio che una cellula tumorale persa. Questo è il mio scopo principale. E quindi ricordatevi alla festa della mamma di sostenere la ricerca, perché anche la ricerca come le mamme va amata e sostenuta. Esatto. Grazie, e poi tra poco riceverà anche lei l'azalea. Sì, un mesetto avrò questo bellissimo regalo, l'arrivo della mia piccola Beatrice, quindi anch'io sto per diventare mamma, l'azalea non può che essere un meraviglioso regalo, e insomma speriamo di essere anche una brava mamma, perché certo, non sarà facilissimo conciliare, diciamo, i due lavori, quello di ricercatrice e di mamma. Però mamma si diventa. Però mamma si diventa con una grande dedizione in entrambi i casi, insomma. Grazie alla dottoressa Marilena Iorio. Ricordiamo l'appuntamento domenica 13 maggio, le azalee. Intanto mi volete comunicare ci sono dalla regia, poi mi passeranno i nomi delle ascoltatrici che le nostre scrittrici hanno scelto per abbinare il loro libro. E intanto io voglio ricordarvi che Essere Benessere giovedì e venerdì, quindi domani e dopodomani, va in diretta al Salone del Libro, padiglione 2, stand J166, con due laboratori. Giovedì, un laboratorio giocato sulle emozioni. Leggeremo, annuseremo e mediteremo. Impareremo quindi a usare i libri, i profumi e lo yoga per il nostro benessere emotivo, e avremo anche delle dimostrazioni pratiche. A tutti i partecipanti del laboratorio, quindi dovete venire al Salone del Libro e poi venirci a cercare, vi sedete lì, una maglietta di Radio 24 che potrete anche personalizzare con la fragranza che vi caratterizza di più. Venerdì invece Mangia con me si trasferisce al Salone, prende le misure, così insieme al dottor Ongaro, alla dottoressa Reverso, e ci raggiungerà anche Marco Bianchi, scopriremo come mangiare bene per sentirsi meglio. Allora, adesso Ludovica Scarpa ha scelto il libro per Michela da Como, Francesca Del Rosso il libro per Barbara, quella che ha detto che no mamma, e Barbara Tamborini il libro per Evelyn. Per oggi è tutto, scappo, grazie alle mamme, buone mamme. A domani. Essere e benessere.